Tu mi sembri agitata e confusa. Signori, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità parti. Un momento e ti lascio, odi. Non vado nulla. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condur meco Figaro destinai. Se osassi. Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi in fuori prescrivi. Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne voglio. Oh no, Susanna, io ti vo' far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunin del giorno. Ah, per questo favore io pagherei. Sì, dopo papà. Ti parla? Okay. Esci, alcuno entri. Che vi lasci qui solo. Ma no, ma sarà. Vado a cercarlo. Qui dietro mi porrò. Non mi gelate. Facci e cerca di farla. Avresti a caso veduto il conte? E cosa deve farmi qui il conte? Animo usci! Aspettate, se sentite, Figaro di lui cerca. Eccellenza, chi dopo voi più nobla? Io non ho mai nella moral sentito uno cani la moglie odi il marito per dir che il conte va. Sortitemi il ministro della tua istranatezza. Io non ho dubbio della vostra morale, del conte del suo amore. Non c'è alcun male a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preteresa avessi per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un saggio. A cherubino, a cherubino, al cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare. Oh, maligno, un'impostura è questa. C'è un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico del frui, nulla dico. E per voi, per madama, a proposito figlia, istruitelo meglio, e la guarda a tavola di sesso, e con tali immodestia, che per conto s'accorge, e tutto al punto sapete che sei una bestia. Scellerata! E perché andate voi tra i menzogni spartendo? Io, che ingiustizia, quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo. Come? Che dicono tutti? Nella cella!